non dovresti avvicinarti ragazze, dovresti avvicinarti ragazze, mi avvicino per prima. Dai, metti l'orecchio qua, no, metti l'orecchio là, adesso metto io l'orecchio a te, tu tieniti pure il mio orecchio. Dai baciami, dai no, dai baciami, ti tocco, lo senti, non senti che senti, ma dove cazzo hai lasciato il mio orecchio? Cosa vuoi che sia, sono andata a Dams, faccio storia delle donne, da grande farò il magistrato coi baffi, però anche tu sei estremamente carino, anche tu coi baffi da magistrato e sei anche molto simpatico. Penso che probabilmente ti sposerò, mi sposerai, ti sposerà, ti sposerò, ci sposeremo. Ho preso un treno per venire da te, l'ho preso 7 mesi fa, sai. A maggio devo andare lontano, il pericolo corre lungo i binari. Ho preso un treno per venire da te, l'ho preso 7 mesi fa, sai. A maggio devo andare lontano, il pericolo corre lungo i binari. La la la la. La tua pelle, finalmente siamo soli, finalmente siamo noi tre.